allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, ammettilo che la storia dei due mesi di astinenza l'hai detta solo perché sai che Mr. Bancarotta, alias Donald Trump, non ha nessuna speranza di vincere le elezioni. E come te saccio a tia? Parenzo, hai paura che Rocco ti ciurli la Natania, vero? Paura, eh? Davide, non si capisce perché non hai accettato ieri l'invito di Rocco Siffredi a fare una cena a quattro. No, tu, guarda, Rocco, guarda, la sua bellissima moglie Rosa, ungherese, no, guarda, ex pornostar, no, e Natalia Zevi. Non riesco su, a capire. Chiariamo su. Francamente non capisco. Ieri non sera capisco. Avevo da fare altre cose. Dopodiché, no, ieri sera, un'altra tutto, sera, ti ha invitato, no, a fare una cena tutto, a quattro. Va tutto benissimo, è tutto straordinario e fa tutto molto ridere. Ma poi se mi dici con chi preferisci andare a cena, nel dubbio, preferisco andare con Zagrebelsky, preferisco andare con Ricolfi, ma preferisco andare con Alberto Quadrio Curzio. Ma sei veramente, preferisco... stai parlando seriamente. Se, se tu dovessi scegliere andare a cena fuori con Rocco Siffredi o con un professore universitario, sceglieresti un professore preferisco universitario? Andare, no, quando c'è mia moglie, preferisco andare con Bagnasco. Preferisco andare direi con Alberto Quadrio Curzio, però adesso lascia perdere questi nomi sconosciuti ai più sconosciuti al popolo, sconosciuti al popolo, sconosciuti al popolo. Ma sì, ma certo, sono sconosciuti. Sei molto più conosciuto tu di un qualsiasi professore Quadrio Curzio. Ma assolutamente, ma Alberto Quadrio e Curzio, tre persone sono meno conosciute di me. A me non me ne frega niente. Tu sei molto più conosciuto di questi. Comunque ti ho risposto, fine, andiamo avanti con la trasmissione. No, ma non capisco questa cosa qua, francamente non la capisco, andiamo avanti con la trasmissione, con la trasmissione. Risentiamo questo, con risentiamo, la porcilaia, no? Risentiamo questo passaggio fondamentale di Rocco Siffredi, perché qui c'è un invito molto esplicito: vieni a cena insieme a mia moglie, porta anche tua moglie. Lui dice no perché non mi fido. Ho capito, ma che può fare il signor Siffredi? Al massimo ci prova con la signora Zevi, ma non è così strano poi. Magari anche contenta. Questo che bella ouverture di trasmissione, eh? Ecco, che bella apertura, che bella apertura. Vaffanculo. Attenzione, avviso ai maschi italiani. Signor Siffredi a Roma, blindate in casa le vostre donne. Attenzione. Messaggio per gli uomini romani. In questi giorni il signor Siffredi è nella capitale. C'è pure... Chiudete a chiave le vostre ma donne. Ma sta con la moglie, scusate, non può fare niente. Lo stesso. Guarda che più lo vieti e più dai voglia di farlo. Assolutamente. Poi ci sono pure quelli che vogliono che la propria moglie venga scopata da Rocco Siffredi. Ma ragazzi, soprattutto però. Quello però. Ma che gente è? Quello sì, tantissimo. Ma che cosa dite? Sì, per esempio tua moglie, tu non avessi piacere. Una scena, Natalia... Ma che scopata da Siffredi, ma sei scemo, amico, proprio. È stupendo, ma non dirò neanche per amico scherzo, mio, ma è meraviglioso, sei scemo globale, ma tu non viene, non ti preoccupare, venire viene, ma... Beh, sarebbe stupendo regalare il San Valentino di Natania. San Valentino di regare una trombata con Rocco Siffredi. Ma perché? Io lo farei, ti ma giuro tu lo farei. Fai quello che ti pare. Ma ormai non le fa più queste cose, non c'ha bisogno di farle, Rocco. Ormai è quasi Vabbè ragazzi, ho letto, per cambiare argomento, ecco, ho letto che la Cassazione sostiene che il saluto fascista, anche se non comporta violenza, è reato. Sì, giusto. Certo, una follia totale. È abbastanza evidente. Non dalle si capisce leggi, perché sì, dalle leggi dello Stato, perché diciamo. No al saluto fascista e sì al pugno chiuso. Vergogna. Ma che stupidaggine è? Vergogna. Anche quello è simbolo di violenza non... del passato. Ma anche quello violenza? Simbolo... Beh, insomma, ma il pugno chiuso cambia la Costituzione. Il saluto fascista è anticostituzionale. è contro le leggi vigenti. Il pugno chiuso non è contro comunque, le leggi comunque, vigenti. Ragazzi, comunque nella, in un servizio di Piazza Pulita, dove eri anche tu ieri sera, sì, buone, ottimo, c'era a un certo punto un tizio che si ottima chiama trasmissione, invita gente per vabbè, bene, vabbè, d'accordo, invita la gente per bene, invita pure i fascisti, però ha invitato me, no, sì, anche altre persone, per carità. In un servizio c'era un candidato con Parisi che si chiama Pavesi, un candidato nella Lega, sì, Parisi, certo, ha protestato, certo, alla fine però si è dovuto, non ha potuto fare niente contro questa candidatura della Lega, un tale Pavesi. Sentitelo questo Pavesi, candidato della Lega. Lei è fascista? Ma io mi definisco un patriota. Cosa pensa di Mussolini? Giusto per capire, perché sennò sembra Mussolini, che... Mussolini è stato uno statista italiano, ha fatto delle leggi, ha fatto delle opere sociali. Mussolini è stato un dittatore che ha ucciso delle persone, no? Non è stato uno statista italiano. È stato uno statista. Io, lo sai che cosa mi sta più sui coglioni delle persone? Quando se la fanno sotto. Cioè, quando non confermano, cioè non dicono quello che pensano. Questo Pavesi è chiaramente uno che dice che Mussolini è un genio, vabbè, eccetera, certo, eccetera. Davanti alla telecamera se la fa sotto. Perché si è reso conto che ha detto una cosa che è contro, no, la legge. Ma non mi interessa che è contro la legge, lo pensi, lo dici. Se lo pensi, lo dici, infatti, non fai il caga sotto. Si è reso conto che è tutto contro la legge. Però dice quindi... che va spesso a Salò a pulire le tombe. Sì, che vada va a pulire... spesso a Salò a pulire le tombe. Questo è interessante, però. Cioè, uno che va a Salò a pulire le tombe, dai. È un malato di mente. Ma lei è vero che è andato a commemorare il 25 aprile, il giorno della liberazione del nostro paese, i morti della Repubblica di Salò? Io ci vado spesso per pulire le tombe che dovrebbero essere pulite dal Ministero della Difesa. Signor Pavesi, ieri poi sempre in questo servizio, poi passiamo all'altro naturalmente perché i fascisti ci hanno anche rotti i coglioni tutte queste discussioni qua, c'era un tizio che è uno di quelli che va alle fiere militari a vendere i gadget, no? Che ha detto che i campi di sterminio non sono mai esistiti. L'apologia del fascismo è un reato in Italia. Attenzione, attenzione, cosa vuol dire apologia di fascismo? Io lo so, lei si deve documentare. In che senso? Si documenti. È stata una dittatura nel nostro paese, il fascismo, no? Me lo dico lo dice io lei. Che questi simboli hanno portato morte. I campi di sterminio non sono mai esistiti. Ah, non sono esistiti non i campi di sterminio? No, non sono mai esistiti. Allora, la vicenda Marchini e la Ferrari assume contorni anche paradossali. La Ferrari, non Paola Ferrari. No, la Ferrari che Marchini possiede ma che vuole vendere. Vuole vendere perché dice che un politico deve essere sobrio. Un politico deve essere sobrio. Ora, caro Marchini, ti voglio insegnare una cosa. Forse in politica non sei molto abituato. Hai masticato politica. Sicuramente io e Parenzo bazzichiamo la politica da un po' di anni. Allora, la sobrietà in politica non si dimostra vendendo la Ferrari, ma essendo se stessi. Se uno è ricco, non può dire no, sono ricco, ma nascondo di essere ricco. La sobrietà. Infatti, su questo c'è un'idea straordinaria della Mussolini. Molto no, bella. La sobrietà, uno la dimostra non toccando un euro del denaro pubblico, non rubando, eccetera, eccetera. Essere sobri, bisogna essere sobri quando uno ha in mano una istituzione, quando è in carica. Non bisogna essere sobri, non si dimostra vendendo la Ferrari quando poi ce n'hai altre 4 o c'hai 4.000, che dovrebbe fare? Vendere tutto il suo patrimonio per dimostrare di essere sobrio? No, deve andare in campagna elettorale anche con la Ferrari, dicendo io sono ricco, non me ne frega un cazzo delle poltrone, voglio amministrare Roma appunto per questo, perché potrei passare tutta la mia vita alle Maldive con le mie ricchezze, eccetera, eccetera. Non lo faccio, voglio stare qui a combattere con i burocrati, con i pezzi di merda, con tutti quelli che si oppongono, no, a rifare Roma. Questo dovrebbe essere il messaggio. Marchini, ma che cazzo di spin doctor hai? Dai, su. Non è che se lei rinuncia alla Ferrari, secondo me non dovrebbe mai rinunciare. Detto. No, appunto, se lei la vende, faccia quello che vuole, automaticamente conquista il cosiddetto proletariato, la detto? Classe proletaria. Ma io, cioè, le sono detto. Io... No, ma allora perché lo fa? Perché è un modo mio intimo. Vabbè, okay. Cioè, io in questo credo molto, nell'insegnamento di Papa Francesco. È giusto. Nel momento in cui non ti ha ordinato nessuno di fare politica... Papa Francesco non pensava proprio alle Ferrari. No, ma no, ma la sobrietà è un tema serio. Messo in mezzo pure Papa Francesco con le sue Ferrari, dai. È veramente, a me mi sta anche simpatico Marchini, perché sicuramente è uno sincero, tranne in questa sua neoconversione, come dire, pauperistica e sulle vicende che riguardano che riguardano il suo passato, eccetera, eccetera. Però amico mio, vendo la Ferrari, in politica non ti può permettere privilegi. Ma di che stiamo parlando? Dai, uno, hai la Ferrari? Usi la Ferrari, la mostri. Sì, ho la Ferrari, sono ricco, faccio politica perché me lo posso permettere. Beh, non voglio prendere un euro dell'indennità da sindaco se sarò eletto, eccetera, eccetera. Non è che dici la Ferrari, no, la vendo, perché il politico deve essere sobrio. Allora le ville, le barche, se ce l'hai, e altre cose, che vuol dire? Che la Ferrari è l'unico simbolo di ricchezza. Comprane altre 20, no? Comprane altre 20, così fai, no, fai muovere un po' l'economia. Questa vicenda mi ha insegnato qualche cosa. Nel momento in cui decidi di fare politica, non ostentare non è più sufficiente. Bisogna rinunciare a quei privilegi. Ma quindi fine... a questo punto vende una Ferrari grigia, no, sì, bellissima. Sì, ma perché purtroppo uso poco. Però vede, la sensibilità... Però non la venderà la Ferrari. Sì, sì, sì. No. Io con i ragazzi abbiamo deciso... Ma sì, perché è veramente così. Cioè, i privilegi nella politica sono qualcosa che non ti puoi permettere. Bah, ragazzi, ho grandi dubbi, vai. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, Red Ronnie insiste. Sai chi c'è qua in studio? Chi c'è in studio? È arrivato quel miserabile di Mercù, quel povero miserabile di Mercù. Perché miserabile? Red Ronnie insiste, demenziale che obbligano a vaccinare i bambini. Il governatore dell'Emilia Romagna, seguito poi dalla Toscana, ha dato ordine che se tu non sei vaccinato non puoi andare a scuola. Io rimango sempre un po' così quando sono i politici che intervengono su questioni di questo genere. Quindi il mio demenziale era questo. Cioè è demenziale vedere una roba del genere, che se io credo di poter avere la libertà di vaccinare o non vaccinare. Senti sull'autismo, dice che gli scienziati che dicono che i vaccini non provocano autismo erano convinti che la Terra fosse piatta, la stessa cosa, dai, su Red, però... Quando sento un dottore che subito dopo che ha parlato con questo genitore dice che non esiste che l'autismo possa essere collegato ai vaccini ed è certo come che la Terra sia rotonda o la benzina infiammabile, rimango un attimo perplesso. Perché? Perché gli scienziati che erano così certi della loro, dicevano che la Terra non era rotonda, ma era piatta. Ma adesso sta paragonando gli scienziati che negano il rapporto autismo-vaccini, vaccini-autismo... A Tolomeo. Dai, su, ragazzi, però, cioè... Tolomeo. Dai, su. Poi dice che non parlerà più di vaccini e di vegetarianesimo. Vabbè, se uno pensa, perché pensa che faremo che... il titolo sul Sole 24 no, ore. Pensa... Red Ronnie, due no, punti, perché non lui pensa vaccini. Che c'è un grande complotto contro di lui adesso, che lo vogliono boicottare gli sponsor, eccetera. Addirittura teme che sarà escluso da non so che gara del cuore degli attori contro i registi. Non parlerò più di vaccini, torno a parlare di musica. Credo che non parlerò neanche più di vegetarianesimo, perché mi sono stancato anche di questa cosa qui. Lo sapete, io sono vegetariano dal 1990, vegano dal 1995. Uso solo prodotti che non sono dannosi alla salute. In realtà io ero andato a quella trasmissione virus con un obiettivo, di dire che al di là dei vaccini come prevenzione, sarebbe giusto anche ai bambini farli mangiare meglio all'asilo, dargli un cibo buono. Antinori, ragazzi, Antinori ha parlato oggi, ovviamente ieri, oggi dalla D'Urso, oggi soprattutto, credo. Allora, sentiamo questa cosa qui, chiedo 5 milioni di euro al giudice di risarcimento. Io chiedo 5 milioni di euro al signor Ribamonte. Ovviamente sono convinto che i GIP dei risarcimento, che so, che me lo assoluto, al 100%. se avete capito bene, chiedo 5 milioni di euro al giudice Ripamonti, quello che l'ha mandato in carcere, di risarcimento. Poi dice che quella tizia a cui avrebbe strappato gli ovuli contro il suo consenso è una marocchina ed è violenta contro l'Occidente. Addirittura dice: la ragazza che mi ha minacciato è dell'ISIS. No, vabbè, è una dell'ISIS. Mi ha minacciato il 10 dicembre. Scusi, ma che interesse ha però di buttare tutto sulla questione degli ovociti, una presunta terrorista dell'ISIS? Ma lei non capisce niente allora. Quando se l'ho scoperta, lei ha buttato sul fatto che gli abbiamo rubato ovoci, si è buttato su quella di tesi lì. Ma sono arrivato secondo al primo Nobel, non sono primo della regina d'Inghilterra. Poi ha detto che ha un patrimonio di 280 milioni di euro e dunque non fa queste cose. La ragazza si è strappata da sola. Antinori numero uno sempre. Mi pare che io con 280 milioni di patrimonio vado a fare una cosa del genere, secondo lei. Come spiega il fatto che ci sono dei risultati medico-legali per cui la ragazza aveva delle ecchimosi? Si è strappata davanti al testimone con le telecamere. Allora, Fiorenzo, provincia di Roma, vai, iniziamo, vai, Fiorenzo, dimmi, non c'è. Allora, andiamo a Varese, Danilo, vai. Pronto? Dimmi. Cazzo, mi chiamate proprio mentre mi lavo i denti. Allora, ti stai lavando i denti? Perché alle 18.52 uno si lava i denti? Di solito l'igiene è dopo cena, ma è dopo cena, dopo pranzo, la mattina. Ma io ho finito, scusami un attimo, ho finito di lavorare, sono tornato a casa e mi sto lavando i denti. Cioè, non ho capito, ma qual è la procedura? Cioè, uno torna a casa e si lava i denti, ma c'è una patologia qui. Cioè, uno mangia, dopo cena uno si lava i denti. Vabbè. Ascolta, ho vissuto tutta la giornata e mi sono lavato i denti alla cazzo al lavoro. Torno a casa e mi lavo i denti. Ma non è così, non serve a niente. Tu lo strano, non io. No, ma scusa, Danilo, abbi pazienza. Ma non ha ragione. Assolutamente. Scusa, uno che alle 18.50 si lava i denti. Oggi ero alla Camera e ci ho incontrato Bianconi, l'onorevole Bianconi. Vabbè, il quale mi ha detto: ma scusa, mi ha parlato dei maiali, della cacca, di come cagano i maiali, di un processo che ha fatto. Lo so. E poi mi ha detto: ma quell'uomo lì, dico chi? Cruciani, ma è normale. Perché? Ma mi pare che tu abbia ragione. Lo diceva con sofferenza di darmi ragione. Mi dice: non si lava. Non si fa. Non è vero. Non si lava i capelli. Ma non è vero. Si scaccola. Fatele perché. Ma per te è normale? Ma dico, guarda, io pensavo di essere anch'io quello anormale. Dice: no, guarda, su questo ti do perfettamente ragione. Bianconi. Bianconi. Allora, Danilo, io non ho capito. Alle 18.50 tu ti lavi i denti. Per me tu non sei normale. Perché è meglio lavarsi i denti dopo cena. Fa. Adesso, vabbè, comunque non serve a niente adesso. Però, che ti lavi i denti. Uno fa la pipì, si lava le mani. Uno fa la cacca, si lava il culo. Uno ha vissuto tutta la giornata fumando, bevendo caffè, si lava i denti. Vabbè, ti lavi i denti, tu vuoi lavare i denti a quest'ora, che cosa ci volevi dire? Dimmi. Io volevo dar ragione a Red Ronnie per esperienza personale. Ecco un altro. Tu che mestiere fai? Scusa, qui bisogna sempre io premettere. Sono un chimico farmaceutico, laureato in biotecnologia del farmaco e con un dottorato in chimica analitica. E allora? Tu, ripiatemi questa cosa, dai. Gennaro da Caserta, dai, Gennaro. Oi, Cruciani. Dimmi, Gennaro, buonasera. Dimmi, che succede? Senti, volevo dire pure io, fare il mio intervento su Red Ronnie, però prima voglio dire una cosa. Dimmi, Gennaro. Ti devo fare una domanda secca. Sì, però non fare il buffone a quest'ora. Ma vado buffone, che hanno un buffone solo ci stai, sei tu. Sì, dimmi, Gennaro, dimmi, Gennaro. Ma tu, no, se a te per esempio ti darebbero 1.500 euro al mese, come un normale operaio di mercato. Se mi darebbero, tu sì. Lo faresti. Per fare cosa? Per fare il coglione due ore in radio, così come lo fai? Per 1.500 euro, dipende, se ne ho bisogno magari lo faccio, no? Se ne ho bisogno lo faccio. Perché tu guadagni 1.500? No, però dico, tu pure stai pieno di privilegi, tu vai a vedere quello lì che deve vendere la Ferrari perché sta giocando quello slogan, hai capito? Però pure tu c'hai i privilegi. Io ho i privilegi, smettila. Gennaro, stai zitto, muto, sparisci, fermi tutti. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari, di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. La Zanzara. Buonasera, buonasera. Vi voglio bene anch'io a tutte e due, nonostante quello che sto per dire. Allora, io lo ascolto da tanti anni, penso sempre una cosa: alla Zanzara ci vorrebbe una figa. Una figa, figlia di mignotta come a te, Cruzani. Davide, tu ti ricordi la prima donna che Antinori, il professor Antinori, accusata adesso di cose gravissime? La prima donna, in realtà non fu la prima, la più anziana che portò a partorire, era credo il 94, com'è che si chiama questa, sì, qua? Mi pare. Perché ho rintracciato il numero di telefono, ma non mi ricordo il nome. Non mi ricordo. Pare 63 anni, 60. Sì, 61, 63 anni, cioè dunque adesso dovrebbe avere 82, 83, 84. È probabile, sì. Com'è che si chiama? Rosanna Giorgi, mi sembra. Rosanna, sì, Giorgi, sì, Rosanna Giorgi. Cioè, adesso il figlio dovrebbe avere più di 20 anni, che nacque credo nel 94, no? Sì, 94, sì, dunque sì. 20, 22. Cioè, il professor Antinori portò questa donna, all'epoca era, fu considerata la donna più anziana. Più anziana. La donna, sì, più anziana a partorire, 61-63 anni. Ho qui il numero di telefono, facciamo una telefonatina, che dici? Non lo so, proviamo, magari, proviamo. Magari pensa adesso che Antinori ha ancora fiducia in Antinori, vediamo, che ne so. Con questo arresto. Ma vediamo. Sarà viva questa qua. Ma certo, ma che ti, ma che parti nera sempre? Pronto. Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo dal Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Buonasera, la disturbo? No, no. Senta, lei è stata praticamente la prima donna sì. Famosa per le operazioni, per gli interventi di Antinori. Lei ha un figlio, sì, che ormai ha più di 18 anni, che è nato grazie... A 22 anni. A 22 anni. È nato, sì, grazie al professor Antinori. Antinori, certo. Ha visto quello che sta passando? Che pare. Ieri sono stata alla RAI proprio per difendere Antinori, perché, perché Antinori è una persona per bene, non è una persona che fa certe cose. E no, io non lo so come l'hanno incastrato. Ste persone. Ah, perché secondo lei l'hanno incastrato? Sì, sì, sì. Vabbè, per lei è stato praticamente, per lei Antinori che cosa è stato? È stato, è tutto. Stato un padre. Un padre. Perché la prima vita me l'ha data mio babbo, la seconda me l'ha data lui. Quasi come Dio praticamente, no? Certo, non dico come Dio. Un gradino sotto, un gradino sotto. Morivo giorno per giorno. Non volevo più vivere, non volevo più niente. Per me la vita era finita, no, non c'avevo più nessuno scopo di vivere. E invece? E invece, dopo che ho saputo che Antinori aveva fatto fare una figlia a una signora grande, ci sono andata e ci sono riuscita a farla pure io. Che età aveva all'epoca? 63, se non sbaglio, no? Sì, all'epoca, quando ci sono andata io, avevo 60-61. E oggi quanti ne ha? Dunque, oggi io no, 80, quasi 85, 84. Però io voglio dire una cosa: è accusato di cose gravissime, signora, furto di ovuli, avere sedato una persona. Ma non è vero, perché lui è l'ovulo, ce l'ha volontà, quante, perché quando lui fa l'inseminazione alle persone grandi, alle persone giovani, non grandi, ma tutte le persone che hanno l'ovulazione, hanno tutto, ma il marito non è potente, sì, di potere, allora quando lui gliele leva una ventina, allora gli servono tre o quattro, il resto gliele donano, perché se no le dovrebbero buttare. Non gli hanno mai chiesto soldi. Però scusi, niente, signora, i magistrati sono sicuri del fatto che contro questa ragazza è stata usata violenza, addirittura Antinori ma ha detto ti ammazzo. Ma non è vero, perché lì c'è tutto aperto, tutto, come fanno fa una violenza di questo genere? Io non lo so, E perché, perché questa ragazza, questa infermiera accusa Antinori, secondo lei? Non lo so. Comunque, ma lei lo capiva Antinori quando... Non lo vuole sapere, lei ha fiducia in Antinori, punto e basta. E basta, io la massima fiducia, ci metterei le mani sul fuoco, che scusi, lui non signora, ha fatto queste cose. All'epoca quanto pagò per questa roba? Ah, questo io non lo so, perché io non mi sono mai interessata. Vabbè, lo saprà. Questo mio marito ha fatto. Ah. Lei ha 63 anni. Io l'ho fatto, ricordati una cosa, perché dimmi, io dimmi, non l'avrei mai fatto. E allora perché? Ma siccome mi è morto un ragazzo di 17 anni, un ragazzo meraviglioso, buono, già aveva tutte le qualità. Allora lei voleva mettere al mondo un altro figlio. Ho cercato all'orfanatrofio, sì, da tutte le parti, nessuno me l'ha dato, nessuno. Sì, sì, mi ricordo. Nessuno. Senti, un'ultima cosa, signora, ma Antinori è dipinto adesso come una specie di mostro vero, per furto di ovuli, un mostro assoluto. Non è vero. Non dia retta a ste cose. No, non bisogna dare retta. I magistrati sbagliano, dice lei, sbagliano. Io sì. I magistrati, sì, le giudici, giudici, a quello che ha ammazzato il mio figlio non gli hanno fatto niente, perché lo dovevano mettere in galera e non farlo uscire. Ma come è morto, scusi, signora? Perché lui andava al mare, questo veniva su dal mare, gli ha attraversato la strada, dice io l'ho visto però pensavo di farcela. Ha fatto un'infrazione, ha ammazzato un ragazzo di 17 anni, doveva essere dentro e non uscì più. Io vorrei parlare con una mamma che gli ammazzano un figlio, quello che lui dice. E invece lei dice i magistrati sanno... lei non ha fiducia, lei non ha fiducia. Che fa pure le avvocate, le giudici. Lei non ha fiducia, non ha fiducia. No. Meglio, meglio Antinori. Sempre voto a Berlusconi. Pure a Berlusconi l'hanno massacrato. L'hanno massacrato. Viva Antinori, sempre. Viva Antinori sempre, no? Sempre, io sempre. Quello sì. Un abbraccio, signora, arrivederci. Grazie, signora, saluti. Allora ragazzi, dove andiamo? A Palermo, Giuseppe. Detto questo, Antinori è accusato anche di avere minacciato di morte, quella ragazza spagnola. Lui nega tutto dicendo che addirittura quella là appartiene all'ISIS. Sì, sì. All'ISIS, stupendo. È una telenovela meravigliosa, ragazzi, dai. Giuseppe da Palermo, vai. Giuseppe? Niente. Paloma Varese, dai. Paloma. Sì, salve. Sì, Paloma. Giusto. Dimmi Paloma. Allora, niente, vorrei dire a Marito parlavate di scalcolare il naso. Come? Scusa? Mentre parlavate di scalcolare il naso. Sì. No, ieri... è un'altra radio, non è possibile che sia sul Sole 24 Ore, no, mi sembra strano. Ieri, parlavamo ieri del fatto che io mi scaccolavo ogni tanto, come tutti, come il 100% delle persone, mi scaccola il naso e ogni tanto butto la caccola per terra, cosa normale, che nessuno confessa, invece io lo dico, cara Paloma. Confessa, ma perché nessuno fa ste porcherie. Il signor Parenzo, che non era d'accordo, hai detto normale. Ma tu sei brasiliana, che sei? Sì, sono brasiliana. Sei brasiliana, anche trans, così per capire. Sono trans, vivo 23 ormai anni in Italia, anche la radio di riferimento dei transessuali. Comunque, beh sì, certo. No, trasmissione di riferimento del mondo transessuale, assolutamente. Una radio degli industriali e qui chiamano i trans, ma io non so. Scusa Paloma, tu fai la mignotta, la prostituta? Io faccio la mignotta e prostituta, perché la prostituta non è che ti dà un lavoro. Benissimo, avanti tutta, forza. Aspetta Paloma, scusami, qua è importante. Allora, non ho capito una cosa. Hai detto che lo Stato ti dovrebbe dare lavoro? Beh, no, amica mia, però qui... Non lo Stato. E chi? Non ho detto lo Stato. Ah, tu dici perché non ti accettano in quanto trans. Certo, in quanto trans. E tu che vorresti fare? Guarda, io ho già lavorato in una parrucchieria per una settimana. Una parrucchieria, Quando mi hanno chiesto i documenti per assumere per mio posto, hanno visto la realtà di quello che ero, che no. Vabbè, perché prima prima non se ne erano accorti che eri trans, non ho capito che sei. Assolutamente. Ma no. Perché tu non sembri una trans dall'esterno? No, se mi guardi, no, non penso. E che sembri, donna o uomo? Frega di non sembro molto una donna, io sono una donna trans. Ah, sì, vabbè, sì, però ce l'hai, il pisello ce l'hai, amica mia. Certo, caro, si vorrebbe. Se no come fai a fare la prostituta, dici? Dettagli, no? Fondamentali. Ah no, perché per capire, Parenzo, ci sta chiamando per capire, cioè per inquadrare il personaggio. Per capire, il professor Dalimonte scrive sul Sole di sistemi elettorali e tu che del metodo Donte, quant'altro, dello scorporo, e tu invece vai nel merito se questa signora o signore, no, a questo punto non lo so. Signora, è dotata o meno. Ma perché ce l'hai con Parenzo, Paloma? Non ho capito. Non ce l'ho proprio con lui per questo discorso, perché ultimamente lui vuole stigmatizzare le transessuali. Non è giusto. Guarda che in Brasile l'anno scorso hanno ucciso nel mondo hanno ucciso 528 trans, del quale come fai a sapere questa cifra esatta? Non hanno ucciso 528 trans, perché cosa l'hanno uccise, scusa? Per la omotransfobia, hai capito? Oggi è anche la giornata contro l'omofobia in generale, cioè, chi se ne frega, perché noi non ce ne fottiamo, perché... Certo, ma quello che ti voglio dire, perché persone come Parenzo che usano la televisione e la radio in Brasile ogni giorno, che vanno a stigmatizzare le trans. Ma non è contro i trans, Parenzo non è contro, ti posso assicurare che non è contro i trans. Ma non probabilmente non gli piace il mondo transessuale. Ma non è che non mi piace, è quello che voglio dire, no, scusa. scusa. Paloma, lui... io però lasciamo perdere Parenzo. Voglio capire quanti soldi guadagni al giorno, ogni giorno, quanti soldi editoriale di Paloma. Io finisco con Parenzo e dopo ti rispondo quanto guadagni. Ma cosa vuol finire, signora Paloma? Io non riesco a capire di cosa vuol parlare. No, io non sto chiedendo, Parenzo, di tu accettare le transessuali. Ma accetto tutto io, ma figuriamoci. Accettale, accettale. Ma chiami anche da Barisoni, però chiami a Focus Economia, signora mia, non soltanto qui. No, lì non si può chiamare, non ci sono gli interventi. Però scusa, Paloma, cucurucucu, Paloma. È stupenda questa canzone, meravigliosa. Bellissima. Meravigliosa. Ma Paloma è il tuo nome finto, d'arte, diciamo. Certo, il mio nome d'arte. Certo, il nome di tuo nome battaglia. D'arte, signora Paloma, signora Paloma. Cosa possiamo fare per te? Come cosa possiamo fare per attirare verso di te molti clientes, cara Paloma? Guarda, che possiamo fare? Caro, io lavoro in via per Busto. In via? Vuoi venire a trovare? No, via io per no. Busto, ecco, vedi, ma per strada? Per strada lavori? Certo, per strada. Per strada. Ma certo. Tutti quelli che lavorano per strada chiamano la Zanzara. Questo anche è curioso. Questo è curioso. Infatti, fatti delle domande, però non importa. Ormai ho smesso di farmi domande. Scusa, Paloma, non ho capito. Tu adesso, per esempio, che stai facendo alle 19:20? Non sei per strada? No, non sono per strada, sono a casa mia, ho appena finito di cenare, dopo vado. Comunque dopo vai, insomma, tu operi nella regione di Castellanza, nella zona di Castellanza, vicino a Varese. Scusa, quanto guadagni ogni mese? Hai fatto un calcolo? Non è che ti mando la finanza? No, mai sommato, no. Vabbè, abbastanza per vivere. Aspetta un attimo, signora Paloma, aspetta, signora Paloma, ferma lì. Cruciani, ti si onto, te che cavei onti, lava... La Zanzara. Allora, eravamo con Paloma da Varese, la mitica Paloma transessuale varesina, brasiliana in realtà, che opera nella regione di Castellanza, che ce l'ha con Parenzo perché secondo lei, Parenzo tratta male i transessuali, no, però posso rassicurarti, cara Paloma, certificare. Non è no, così. No, ma l'ho sentito ieri, e ieri l'hai detto che tu eri sporco e non ti lavavi, non facevi il bidet, e chi pensava che tutto era normale, intervistava anche le trans pensando che era normale. Sì, no, ho detto, signora normale. Paloma, mi scusi, che in questa trasmissione fanno passare, in particolare il signor Cruciani, per normale, cose che sono... Perché a... non è la norma, perché la signora stranette, Paloma non è normale secondo stranette. Te come concentrare non è normale. Ma certo che è normale, ma concentrare in questa telefonata. Ma ieri tu hai detto che le transessuali non erano normali. No, ma è tutto scusa, normale, va benissimo le transessuali. Che dico detto. Che qui nella radio degli industriali scusi, chiamano 99% transessuali, non scambisti, vero, gente non che non si lava, non ti hanno mai fatto niente. Ma no, non è vero. Non voglio benissimo i transessuali, mi va bene tutto, figuriamoci. Ma non è vero nemmeno questo. Perché sei così tanto? Scusa signora Paloma, lei legge qualche Paloma. Giornale durante... Signora Paloma, leggerà il Sole 24 io Ore, io vedo no? i giornali, leggo anche internet, vedo qualche giornale, sì. Sì, lei legge leggerà anche il Sole 24 Ore, ovviamente, ma non immagino. credo. Sì, come no. Non credo proprio, non no, si interessa. Io sento il giornale orario vostro, della Radio 24 Ore. Parenzo, scusami. No, ma leggerà anche il Sole 24 potrà Ore. Potrà sentire il giornale radio di Radio 24, la signora transessuale sì, no, quello di Varese, ottimo, certo. Quello ottimo, però avrà visto il Sole 24 Ore, gli ma articoli no, di Quadrio Curzio, ad esempio, immagino li abbia letti. Non sa chi sono. Guarda, Parenzo, tu smetti di stigmatizzare le transessuali, io inizio a leggere il giornale 24 Ore. Oh, perfetto. Mi fa un fai uno scambio, dillo al napoletano pure che abbiamo preso una copia, signor Paloma. Non so se è contento. Signor Paloma da Varese. Sì. Senti, cara Paloma, hai detto, dai, dimmi una cifra, quanto guadagni al mese più o meno, dai? No, ma guarda che... Che questo... ti frega, mica ti mando la finanza, no, dai. No, ma non è quello, perché dipende, uno c'hai 20 anni, c'ha un guadagno, uno che ne hai 30, 40, ne hai un altro guadagno. Ma non ho capito bene, quanti anni hai tu, per esempio? Io ne ho 38. 38 anni, vabbè, ma avrai una cifra, che ne so, 3, 4 mila euro, 5, 6, 7 al mese, quante ne fai? No, magari, se ne sono già è andato il tempo che si guadagnava queste cifre. Quanto guadagni? 2.000, 3.000 al mese? No, è sufficiente per pagare il mio affitto e vivere e pagare le mie spese. Cioè 2.000 al mese, 3.000, quanto paghi? Quanto guadagni? non c'è un guadagno, è inutile, non vabbè, ma che ti frega, ma non è che viene la finanza, no, non è che ti mandiamo certo la finanza. Certo che non viene finanza, ci sono quelle che vanno lì che dicono che guadagnano 5-10 mila, auguro che la finanza li va e le togli proprio tutto. E perché, poveracce, quelle tue colleghe te la prendi, vergogna, perché? Vogliono anche mettere le tasse sulla processione, è la cosa più ingiusta del mondo. Come più ingiusta del mondo? Sarebbe giustissimo, no? Ma non è giusto, perché una prostituta grassa, brutta, ci guadagna 10 euro al giorno, come fa a pagare le tasse? Pure le tasse, dici. Vabbè, ho capito, certo, amica mia, però. Una bellissima di 20 anni ci guadagna i suoi 1000 euro. Questa è la tesi giorno. Economica interessante, signora Paloma, però. Sì, sta esponendo una teoria economica interessante. Lei dice la famosa battaglia anche della Zanzara. Ma sta prendendo appunti. No, sulla legalizzazione della prostituzione. In realtà penalizzerebbe quelle forse come lei, non lo so, una brutta, tu sei grassa. No, io non sono brutta né grassa. Io sono molto carina e bella, però soltanto che ho già i miei 38 anni, ne conosco tutti. Tu dici non vuoi pagare le tasse, non vuoi pagare le tasse, perché altrimenti non guadagneresti più niente, guadagneresti ma molto certo, poco. Certo, no, assolutamente. Capita, amica mia, però. Però perché il suo problema, scusi signora, deve essere di interesse nazionale? Ma perché la legalizzazione caso? Della prostituzione, le tasse sono problemi nazionali. Vabbè. La signora Paloma, appartenendo a una categoria, chiamasi prostituta, non vuole pagare le tasse, perché dice una cosa è quelli che guadagnano 10-20 mila euro, una cosa è quello che guadagno io, che magari è meno, e altrimenti non ce la faccio per campare, giusto cara Paloma? Certo, in Svizzera è una tassa fissa per tutte, quindi... Vabbè, questa è una teoria interessante. Io, Paloma, scusi, ma lei quanti clienti fa al giorno, così, in media? Proprio vuoi sapere, ma no? Dai, Paloma, che ne so, 2, 3, 4, 5, dai. Sì, va bene, 2, 3. 2, 3, va bene, la cifra detta così. Sì. Vabbè, Paloma, ciao, ti saluto, Va ti bene, saluto. Ciao, mi grazie. Mi raccomando, ciao, Saluti, Castella. Quando, quando è che esci stasera per andare per strada? Alle 10 sono lì. Alle 10 sei lì, Castellanza, zona Castellanza, eh? Grazie, ciao. Perfetto, ciao, grazie. Rosario da Roma, vai Rosario. È pronto, buonasera. Dimmi, Rosario. Io riguardo, guardi, io sono molto arrabbiato con lei. Sì, vabbè, quello è abbastanza normale, non mi stupisce. Io pretendo le sue scuse perché io sono un artista. Questo mi pare un po' troppo, anche perché non so no, per quale motivo. Sentire, infatti, guardi, io sono un artista, ho 48 anni. Sì. In gravi condizioni economiche e continua a fare l'artista. Vabbè, ma quello perché dai? Chiede i soldi a suo padre? Lei chiede i soldi a suo padre? Ai suoi genitori? Sì, no, diciamo io mio padre non ce l'ho più. Comunque io ho fatto l'artista di strada, ho sostenuto Amnesty International, Alto Commissariato, UNICEF e ancora oggi, seguendo l'esempio del grande B.B. King, sarei pronto ad andare a suonare a un angolo di una strada. Ancora, perché non mi vergogno, perché l'arte e chi è ha detto e chi ha detto niente? Scusa Rosario, chi ha detto no, nulla? Lei dice, ma no, ma non hai capito nulla. Anni, se non cioè un artista. Quanti anni hai? Scusami, Rosario, quanti anni hai? Come il giornalista. È inutile che dicono che è un mestiere, è una missione. Sì, vabbè, Rosario, tu puoi fare musicista, ma l'argomento non era questo. Tu puoi fare quello che ti pare nella vita. Cioè, ognuno può fare anche chiedere i soldi ai genitori. Io sto dicendo semplicemente, ripetendo. No, i soldi ai genitori non. Io purtroppo non ho. Ma poi li puoi anche chiedere. Io ho detto che mi vergognerei, punto e basta. Cioè, mi sentirei un parassita a chiedere soldi a mio padre a 47 anni. Mi sentirei un parassita. Non può mettersi in questo, in questa ottica, allora perché l'artista, le ripeto, è una missione. Ma chi se ne frega che è una missione? Sto dicendo che qualsiasi cosa uno faccia, in particolare mestieri dove è difficile guadagnare tanti soldi. A me mi hanno minacciato di sgozzamento perché? A Piazza Navona facevo dei concerti contro la mafia, ha capito? E ho fatto anche degli esposti alla polizia. Rosario, perché? Ha capito? Ecco, quindi lei ha il mio numero di telefono, io pretendo le scuse da lei. Ma quali scuse? Ma quando mai? Io non ho offeso nessuno, per carità, ma assolutamente. Vabbè, figuriamoci se chiedo scusa in nome di chi? Non ho capito, in nome di chi? Lei rappresenta chi? Gli artisti? Io dovrei chiedere scusa per che cosa? Perché signore, io ho avuto una ditta individuale, ho fatto lezioni di chitarra, suono meglio di Jimi Hendrix e disegno meglio di Leonardo da Vinci. Adesso, mio. Rosario, ma chi, per ma, carità, ma, che tu sei meglio di Jimi Hendrix io, ecco, e disegni meglio di Leonardo da Vinci. Io potevo anche un confronto a questo punto, vinto visto che fa lo sparato. Sono morti, però Jimi Hendrix è difficile da... Che vuole, scusa, un confronto? Forse lei è invidioso. Ma invidioso di chi, scusi? Di chi ha talento. Io sono invidioso di chi Senta, ha talento. Senta, professore, non volevo dire che... Intervieni tu, perché prima hai dato ragione a lui. Io stavo anche per seguirla all'inizio del ragionamento, però allorquando mi chiama in causa un signore come Jimi Hendrix, dicendo che lei è meglio, faccio fatica signore, a seguirla. Io sono stato considerato da Franco Sarra, che è il batterista di Vasco Rossi. Sì, da ma per carità, assolutamente. Se tu saresti meglio di Jimi Hendrix, saresti meglio di Jimi Hendrix. No, ma perché gli dava tutto bene? Tu ma, lei ma lei sta scherzando, signore. No, ma io non sto scherzando. Io ho avuto i complimenti di Carl Potter, di Franco Sarra, batterista di Vasco Rossi. Ma io chi dice? Ma per carità, ma assolutamente lei sarà. Tu sarai, ma tu, iniziva, capito? Ma tu sarai bravissimo. Tu sarai bravissimo. È una missione l'artista. Vabbè, ma questo qua va bene, ognuno interpreta come vuole. Io ho semplicemente detto che qualsiasi mestiere uno faccia, se chiedi soldi a tuo padre, io mi sentirei a disagio a chiedere. Io a 40... mio padre, guardi, io lo posso dire invece degli artisti di no, continuino così, perché se i genitori diventano anche i migliori sponsor, va bene, non siete assolutamente. Vabbè, allora, fatevi mantenere dei genitori fino a 70 assolutamente anni. Assolutamente sì, perché fatevi mantenere fino a 70 anni. È un problema dell'artista, signor Cruciani, è un problema dell'artista. Senti, a Jimi Hendrix se deve piazza Navona, a Jimi Hendrix. E vi dico, artisti, non vergognatevi. Sì. A Jimi Hendrix se deve piazza la resistenza in questo, continuate a vivere da artisti, amando e soprattutto con serietà, perché l'artista richiede anche una grande A Jimi Hendrix di piazza Navona proprio. A Jimi Hendrix chiama, ma dimmi se è normale, chiama uno che dice che è meglio di Jimi Hendrix e sta con le io veramente non so, ma ormai è tutto degradato, è tutto. Vabbè, Rosario, che ti devo dire? Non c'è più una mezza mistura. Che ti devo dire? La trans, quello non scusa, si lava, fammi sentire, chiama uno aspetta, che aspetta. Dice che è meglio di Jimi Hendrix. Aspetta. Come si fermerà questa slavina? Come si fermerà? Non si ferma più. Nomi, amico mio. Ma no, amico mio, corno, dai. Prima la trans, non si lava, il bidet, e le mutande, e quello che vuole fare ingropparsi la moglie di quell'altro. E adesso Jimi Hendrix, ragazzo mio, è diventata una porcinaia questo posto. È impossibile fare pulizia qua dentro, impossibile. Ormai siamo immersi nello schifo. Cosa potrà ancora accadere di più qua dentro? A questo che ha fatto Rosario adesso. Ma che ha fatto? Mi fa impazzire anche lui. Era partito bene, poi dici io sono meglio di Jimi Hendrix. Ma che dice? Mi hanno minacciato di sgozzamento, Elisis, e quell'altro Antinori che denuncia l'infermiera che è lì. Ma ragazzi miei, che mondo è? Che mondo, ma che io mondo sono pure in America, ma che cazzo, io sono stato anche a Los Angeles, hai capito? Sono stato a Cuneo, alla Dispoli, e ho rischiato pure la vita, hai capito? Ho ricevuto pure i complimenti da Claudio Simonetti, che durante il concerto... E cosa devo fare io di questo? Che devo fare? I complimenti che mi hanno portato la chitarra e suonavo insieme al grande Steve, hai capito? Hai capito? E io sono stato alla Dispoli, che devo fare? Ma io non lo so, ma tutti qua concentrati. Ma io dico va bene, il fatto è questo. Se scusa, non Jimi Hendrix, amico mio. Jimi Hendrix, aspetta un attimo, cantaci qualcosa di Jimi Hendrix. Suonaci qualcosa almeno di Jimi Hendrix, così in tono, no, cantaci, insomma, facci un po' un pezzo di chitarra di questo Jimi. Ci vorrebbe a questo punto almeno così dimostri come guarda, io adesso mi trovo in una situazione che non faccio una cosa del genere, però se vuoi una crociera prendo la chitarra e ti faccio sentire come si suona. Sì, ma per carità, tu sarai meglio di Jimi Hendrix, però mi potrai permettere di avere qualche dubbio su questo. Così, cioè, allora chi ti ha fermato? Come è il film dei sordi là? Chi mi ha fermato? Mi ha bloccato, ti ricordi quel film là? Mi ha bloccato la cosa? Cioè, non mi ricordo che... No, chi ti ha fermato in questa tua ascesa verso l'empirio della musica? Chi ti ha bloccato? Ma ci sono tante cose. Innanzitutto anche la condizione. A me, per esempio, l'ambiente non mi piace. Non ti piace? No, le cose del genere. A me non interessa. E come fai a essere meglio di Jimi Hendrix? Scusa, spiegami. La natura, dici? Certo. Vabbè, ma perché allora non sei diventato come Jimi Hendrix? Perché a me non interessa essere Jimi Hendrix, lui mi ispira, ma io faccio le cose che decido io di fare. Ho studiato Schoenberg, Gaslini, io ho insegnato, ho avuto classi addirittura con 32 persone, hai capito? Vabbè. Quindi io merito rispetto, come meritano rispetto tanti altri Ciao Jimi, ciao. Siete due merda. La Zanzara. La Zanzara è un meraviglioso allucinogeno. Peccato che dopo 2 ore si ritorni alla cupa realtà. A proposito di follie, Parenzo, tu ci credi a questa cosa che ho letto oggi? Cioè che praticamente esistono dei parti di natura naturalmente sessuale dove una persona ha l'HIV, no? e si fa una specie di sex roulette, una specie di roulette sessuale. Sono delle vere e proprie orgie alle quali le persone partecipano sapendo che tra di loro c'è sicuramente un malato di HIV. Ma secondo te è vero o no? Io non ci posso credere. Dov'è che fanno? Io, una volta ci fu un servizio delle Iene su questa roba qua. Non mi ricordo dove, in Inghilterra, in Gran Bretagna, in Serbia addirittura. La moda sarebbe nata in Serbia. Ormai non mi stupisco più di nulla. Guarda. Cioè non ti stupisci nulla. Potrebbe esserci una cosa una di questo tipo secondo pazzesca, te. Una follia, una dai, una roulette russa della morte. Una roba assurda. Ecco, per esempio, tu che libri dicevi? Perché io adesso ti spiego il senso di questa domanda. Guarda, sì, una buona. Ecco, per esempio, oggi che libro hai ricevuto? Ogni tanto ricevi dei libri, no? Poi ti dico perché. Adesso, guarda, oggi avevo ricevuto un libro che si chiama L'idiota in politica e parla della Lega, un Benissimo. Libro di un sociologo francese. Benissimo. Io invece ho ricevuto un libro. No, ma farti un esempio, fermati, mi basta questo. Io ho ricevuto oggi un libro di un signore che si chiama Guido Barbagli, che si chiama Pene. Ti assicuro, pene. Si chiama? Pene. Beh, non sono le pene corporali. Pene dell'inferno, forse. Non sono le pene dell'inferno, neanche ma proprio quelle. Pene. Cioè pene. Il pisello, pene. Ma questo signore qui non è uno qualunque, è un medico. È un medico, uno specializzato in urologia, come mio zio. Di fama internazionale. E ha scritto un libro straordinario, un libricino straordinario sulle sofferenze del pene. Cioè facendo un paragone, un collegamento tra le due parole. Il pene... e le pene come sofferenza, perché il pene comporta comunque una sofferenza. Beh, ma ti assicuro che ci sono dei passaggi fenomenali. Ma perché devi offendere questa persona che è un medico, non so, un urologo? Sto leggendo un libro che è 2084, La fine del mondo, che è un saggio straordinario legato all'immigrazione e a quello che potrà accadere. Vabbè, ma questo chi se ne fotte. Lisa da Lucca, dai. Lisa, non leggerei mai un libro del genere io. 2084, La fine del mondo, un bel libro. Bene, Lisa da Lucca, vai. Lisa. Sì, pronto. Dimmi Lisa, dimmi. Sono qua. Dimmi. No, a parte che di persona non la conosco. Comunque no. Beh, io questo dire poco cosa, importa, no? Se non mi conosce di persona. Vabbè, non è l'importante. Non è importante, Lisa, dimmi. Ecco, allora, io siccome volevo riferire a quel discorso che ho fatto con il signore, diciamo che telefonò tempo indietro, qualche giorno fa, che dice io dormo nel bagno perché c'ho quel problema con quella gente di discorsi vari. Quello... No? Allora lui deve prendere armi e bagagli, deve andare in questura e riferire tutta quanta alla questura. Senza timore, come ho fatto io con l'inquilina. Che è successo con l'inquilina? Scusa, che è successo con l'inquilina? No, io con l'inquilina avevo un problema che il figlio mi ha fatto un incidente, traumacranico, traumatoracico addominale, le gambe rotte, vabbè, ha avuto due interventi. Poi? Niente, ho fatto che sono andato al giudice, in tribunale, dal giudice, in procura, sono andato su, ho fatto tanto. Vabbè, ma adesso questo chi se ne frega, ma perché ci ha chiamato? No, cara, niente, questa è la domanda. Discorso, no, ti voglio dire che siccome c'ho un marito che è d'agosto che non mi consegna due soldi, no? Aspetta, questo è interessante. Dunque, è la gente che comincia a raccontare i cazzi propri di litigi, questa è una trama, una roba molto interessante. È un segno di degrado. No, che degrado? Lisa, non ho capito, che ti ha fatto tuo marito? Non ti dai i soldi? Che ha fatto? A parte che... Che ha fatto? Che scemo, in che senso? Tromba le altre? Sì. Lei giustamente lo dice alla radio. Va bene, andiamo avanti. Ma non è normale, vergogna, normale. Ragazzi. Sì, per carità. Ma fa non bene ho capito, lei, Lisa. Ma fa bene lei, per carità. Non ho capito bene, io. Ma questo è ancora suo marito oppure... È il marito per la legge, però si è portato a casa un'egiziana che evidentemente pensa che sia sua moglie e non mantiene la moglie vera, che sarei io. Che sarebbe lei, non dispone da agosto, diciamo, di un centesimo e mi manda a fare che... E mi manda a quel paese, mi manda e vado, diciamo, da altri che sarebbero i parroci e ti danno magari 5 euro e 10 euro. Questo è interessante. Allora, e ora ho fatto la denuncia e aspetto che sarà da qui ad agosto la decisione. Decisione del giudice e dirà questo signore ha dei problemi mentali. Cara Lisa, quanti anni ha tuo marito? Scusami. 62. Quando è che ti ha lasciato? Sono 3 anni. Tre anni che sta con l'egiziana? Evidentemente sì. Che ne so, evidentemente lo sai tu, no, se non lo sai tu. Aspetta, ma che vuol dire? Lei è sorpreso proprio prima dentro la cubana, prima la cubana. No, l'egiziana saranno 2 anni. L'egiziana 2 anni. Prima con chi è stato? Con una cubana, poi? Con una cubana, con la rumena, sì. Però fatti qualche domanda pure a cara amica Lisa, chiediti qualcosa. Come mai questo qua con le rumene, con le cubane? Perché come direbbe il mitico Mario Brega, pure le negre, no? Questo signor Mario Brega direbbe pure le negre, altro metro a pansé, altro metro a pansé. Beh, numero uno è morto, Brega. È morto, non offendere i morti. Spendere 2000 e passati euro così a schiocco di dita, poi se ne va giù in Calabria, fa con gli amici, se la gode. Però lei si ponga anche questa è una trasmissione che si occupa anche di politica ogni tanto. Perché il signore ha scelto di mandare qui la sua missiva? Chiedo. No, ascolta, però caro, io c'ho avuto che sì. il cugino del nonno era in politica una volta. Ma che cazzo, e dalla politica a me me ne messo frega di meno, perché l'altro sta un po' anche un attimino, diciamo, prima la pancia e poi dopo si pensa alla politica. Va bene, perché la politica sintesi, io ho avuto il posto dopo 30 anni che ho fatto la domanda, mi hanno preso per 3 anni, diciamo, su alle scuole. Sì, però Lisa, questo va benissimo, però io dico una cosa. Mi hanno messo a casa così di tuo marito, che è andato con chiunque praticamente, no? Beh, giusto? Sì, dice di sì. Beh, è andato con chiunque. Direi così, cioè, praticamente si è fatto tante per tante donne. E tu, quando quando te ne sei accorta? Mi sono accorta che questa persona qui aveva un atteggiamento non consono, sì, mi pare chiaro. Non era normale, perché spariva dall'abitazione. Spariva dall'abitazione, certo. E ti ha lasciato poi senza un euro, praticamente. Questo è il punto fondamentale. Ho fatto con legali, ho due collegali. Avvocati. Va bene, ecco, come ti possiamo aiutare noi, cara Lisa? Perché tu ci hai chiamato e ci hai raccontato questa storia drammatica. Questa storia incredibile, drammatica. Chi l'ha visto? Di una donna lasciata dal marito senza un euro. Si è fatto praticamente mezzo mondo suo marito, no? Anche dal punto di vista. Ma mezzo mondo? È logico, magari non è. Cioè, dal punto di vista delle bandiere, delle nazioni. Cos'è che manca? Un'africana no? C'è, è quella. Ma l'ultima. Perché gli devi dire così? Che manca un'americana? Se l'è fatta pure un'americana? Tuo marito? Io sono andato con tante mignotte che non hai idea. Signora mia, però adesso che ci frega a noi? Ma sia gentile, ma la sua rabbia perché si trasforma in rancore? Ma non ho capito, ma aspetta, che ci frega Lisa, a noi, però? Ti prego, non ce la faccio. Aspetta, Lisa, aspetta. Ti sono vicino, però, ti sono vicino. Dove c'è zanzara, c'è caccia. La zanzara. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call your love when you feel there's nothing left in you. Allora, caro Parenzo, sai chi è collegato con noi? No, non lo so e mi interessa anche molto poco. Fatto. Come ti interessa poco? Non mi interessa niente. Non ti interessa nulla? Per niente. Nulla. No, è collegato con noi dalla Turchia. Ali Agca, buonasera. Buonasera. Questo è importante. Come sta? Di salute, tutto a posto? Sì. Beh, hai 58... Gliela stai tirando. Dico, a 58 anni, mica un ragazzino. 58 anni. Ma guarda, io mi sono collegato soprattutto per un fatto molto importante, perché questo è anno della misericordia. Il Vaticano deve dire basta con le parole e deve passare ai fatti. Ma su che cosa? Il Vaticano possiede 2.000 miliardi di euro. E cosa dice Gesù Cristo? Datevi. Se avete due pane, date uno all'altro. Datevi. E vi sarà dato. Allora il Vaticano deve distribuire al mondo, a tutti i poveri del mondo, almeno 1.900 miliardi di euro. Il resto, 100 miliardi di euro, basta ed avanza per il lusso del clero. Ha ragione Ali Agca, devo dire la verità. Su questa guarda, questo è il vero cristianesimo. Aspetta. Dove hai fatto questo calcolo? 2.000 miliardi, scusami, Ali Agca, amico mio. Il calcolo, amico mio, amici. È fatto anche dal giornale Il Sole 24 Ore. Pure Il Sole 24 Ore. La fa. Certo, assolutamente. Agca, ci dica che fine. Aspetta, su Aldo Moro, lei sa qualcosa sulla morte di Aldo Moro? Ma che c'entra Aldo Moro? Aspetta, vedrai. No, lo scherziamo, mica. No, lei ha qualche notizia, perché dopo parleremo di Orlandi, il caso Orlandi, ma sul caso di guarda, Aldo Moro. Aldo Moro si parla coloro che non volevano un governo cattocomunista, quindi erano quei poteri occulti che hanno ucciso milioni di persone in America Latina, in Vietnam, qua. E chi è che non voleva? Gli americani? Gli americani non ci sono Moro, dai, avanti. Gli americani hanno ammazzato Moro, secondo te? Cosa incredibile. Questo è una intuizione. Senti, andiamo alla Orlandi. Abbiamo allora detto anche questo. Aspetta, intanto, andiamo alla Orlandi. La questione è molto semplice. L'altro giorno, durante la notissima trasmissione, chi l'ha visto, la signora Sciarelli ti ha detto che stavi dicendo delle buffonate perché non portavi le prove di una tua tesi. La tesi è questa, cioè che la Orlandi sarebbe stata rapita dalla CIA in collaborazione con esponenti del Vaticano per ottenere la tua liberazione, caro amico mio, la tua liberazione. Amico mio, amico ora, suo. Guarda, ribadisci questa tesi o no? Signora Sciarelli ha fatto un po' di maleducazione. È maleducata, maleducata. Sciarelli anche, io, anche dalla Sciarelli. Io non l'ha chiamato, guardi, se io poteva dire, guarda Sciarelli, ti hanno chiamato come amica del presidente Cossiga. Può essere anche amante, può essere fatto normale. Non dico, io non parlo queste cose. Io non parlo queste cose. Ma intanto l'ha detto perché, aveva, detto. Perché aveva un rapporto con Cossiga, Sciarelli? Sì, sì, amante, sì, sì, diceva, tutti parlavano, guarda. Ma tutti chi parlavano? Ma guardate, che c'entra questo, scusami? Ma che c'entra, no, che dice? Guarda che Sciarelli vuole proteggere i poteri forti, per proteggere i servizi segreti deviati, per proteggere la CIA, subito mi ha chiuso il telefono. Ti ha zittito, sì, ti ha zittito. Per la CIA, ma che c'è della CIA? Ma aspetta, aspetta, fai parlare. Guarda, il signor Accia. Io voglio dimostrare, ci sono delle prove, guarda, il 19 agosto 84, da Ancona, i rapitori di Emanuele Orlandi hanno mandato una lettera all'agenzia ANSA di Milano. In questa lettera chiedevano al Vaticano di intervenire presso il presidente, il governo del Costa Rica e il governo del Panama affinché questi governi possano accogliermi nel loro paese per arresti domiciliari. Guardate sull'agenzia. No, ma d'accordo, ha ma detto, questo cosa prova questo qua? Non ho capito. Perché tu hai detto che la Orlandi è stata rapita dalla CIA. Che prove ci sono che è stata rapita dalla CIA? Va bene, un attimo. Bisogna pensare. No. Emanuele Orlandi è stata rapita soltanto dalla mia, per la mia liberazione. Poi hanno mandato Paolo Farsetti e Gabriella Trevisin a Bulgaria. Chi l'ha mandati? Chi l'ha mandati? Altre diffamazioni. I poteri occulti della CIA, dei servizi deviati. Ma scusa, ma perché volevano? Mettiamoci contro i pezzi internazionali. Perché la Orlandi? Perché la CIA voleva rapire la Orlandi in cambio della tua liberazione? Spiegami. Guarda, volevono premiare la collaborazione, quindi di accusare l'Unione Sovietica, un evento immenso. Ecco, anche Putin adesso. Questo è un premio. Scusi un secondo, signor Lupogrigio, se ho capito bene. Sì. Se ho capito bene, perché non forse non ho capito. Allora, hanno rapito la signora Orlandi secondo il signor Ali Agca per far liberare Ali Agca, lei era in galera in Italia. Sì. Il Vaticano, d'accordo con la CIA, fa rapire la Emanuela Orlandi per far liberare lei. No, fanno una sceneggiata. Hanno portato Emanuele Orlandi molto probabilmente in un convento di clausura che nessuno possa scoprire. Ma la Orlandi, sei ancora convinto che è viva? Secondo me sta in mano al Vaticano o in qualche convento, qualche luogo di Opus Dei, qualcosa del genere. Hanno plagiato, lo hanno fatto probabilmente una suora. Guarda, ma tornerà o no? Ma è molto difficile. Se il Papa Francesco, in questo anno della misericordia, il divino della misericordia ordina, guarda, deve ordinare al Vaticano, deve dire di liberare. Liberate Emanuele Orlandi. Se il Vaticano non lo fa, vuol dire che il Papa Francesco deve dimettersi. Addirittura. Ma cosa dobbiamo fare di più qui? Scatenare quali forze del male? Vuoi incontrare, Ali. Chi vuole incontrare? Incontrare il Papa o no? Eccolo là. Vorrei incontrare, nessun problema. Quindi, tutto sommato, guarda, è un uomo buono. Secondo te il Papa sa questa cosa? Il Papa sa dov'è l'Orlandi? Il Vaticano, il Papa non può sapere in quale convento precisamente. Senti, ma questo Papa rischia la vita secondo te? Rischia la vita perché ha denunciato tutti trafficanti delle armi. Ecco, ma uno oggi, caro Ali, se vuole uccidere il Papa, è più facile rispetto a quando ci hai provato tu? No, ancora più difficile. Meno male, però, va, meno non male. È che è impossibile, uno può farlo con un missile Stinger intorno al anche Vaticano, il elicottero del Papa può mandare. Ma forse non ce la farà, non avrà ulteriore forza fisica e forse si dimetterà quel tempo, ci saranno tre papi in Vaticano, sarà un casino. Secondo te il Vaticano dovrebbe chiudere? Ma dovrebbe chiudere e dovrebbe rimanere là come un istituto della beneficenza. Ma ci rendiamo perché conto? Il guarda, il cristianesimo, ma ci rendiamo conto di chi parla? Il Vangelo dell'amore. Tu dici dovrebbe chiudere, della condivisione. Ha sparato al Papa e dice amore, la cosa incredibile. Dovrebbe chiudere. Questo è il Vangelo. Il lupo grigio ci spiega il Vangelo. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi miei? Ma basta! Ma che roba è? Ma il Vangelo deve chiudere. Scusi, il Vaticano deve chiudersi. Ma basta. Cosa sta basta, dicendo che il Vaticano? Chiudiamo. Io un lupo grigio! L'un lupo grigio! Cosa vuol dire che il Vaticano deve chiudere? Ali, senti un attimo, ma di cosa vivi adesso? Io? Come campi? Io benissimo, con aiuto dei miei amici, dei parenti, quindi non è che io non fumo, non bevo, ho una vita molto semplice. Ma ogni tanto qualche donna ce l'avrai? Sì, certo. Ho fidanzata, comunque fissa, con 1000 euro, una fissa. Guarda, con 1000 euro vivo benissimo. Con 1000 euro vivi bene, guardi, vivo benissimo. Ci fa proprio piacere, guardi questo. A 58 anni hai una fidanzata finalmente o no? Sì, ce l'ho, detto. È turca? Che è? Una italiana innamorata di me. Italiana? Beh, stupendo. Di dov'è questa ragazza italiana? No, non lo dico. No, ma scusa un attimo, questa ragazza italiana vive con te oppure ogni tanto ti viene a trovare? Ma insomma, non posso fare rivelazioni per la sicurezza della mia amata. Ma quale sicurezza? No. Ma appena parlato della CIA, della cosa, del Vaticano. Aspetta. Gli chiediamo della finanza. Ah no, ma ti deve sicurezza. Ma quale sicurezza che ci ha devastato i rapporti con la CIA, guarda, con Mossad, con Putin? Guarda, la sicurezza, c'è anche la sicurezza morale. Da quanto tempo sei fidanzato? Qualche anno. Tu che sai tutto, ma sei molto informato comunque, ma l'Italia reggerà oppure fallirà come paese, giusto per far capire, Parenzo, no? Cosa ne sai sulla Io credo che americani stanno cercando di distruggere l'Unione Europea. Questo è interessante, sì, questo è scritto in tutti i giornali, perciò i poteri forti del mondo vogliono distruggere l'Europa. L'impero americano ha una egemonia assoluta americana in tutto il mondo. Ma scusa, signor Trump, ti piace il signor Trump? Ma no, è un buffone, quindi. Ma in Italia tu chi voteresti in Italia? Ecco, manca questo. Io? Ma credo che non è tanto male. Renzi, non è male. Non è male. Distrutto, guarda, volevano farlo cadere sul referendum. Tutto sommato, dici. È bastata l'endorsement di Alia Cha per far cadere Renzi definitivamente. Perfetto. Salvini? Ma Salvini è un razzista deve ricordare, un po' la fine di Mussolini. Quindi dobbiamo lottare per edificare un'Italia più democratico. Sì, vabbè. Senti, ma l'ISIS, che ne pensi invece dell'ISIS? Ma ISIS, guarda, ISIS è una provocazione americana. Creato dagli americani, anche da Israele. Anche da Israele. E sono dei barbari, anche del sionismo internazionale. Ma per forza, mancava questo. I barbari dell'ISIS, vadano all'inferno, basta. Vada all'inferno. Vada all'inferno, però sono creati dalla CIA e dalla Mossad praticamente. Sì. Un corno. Sì. Tutti vadano all'inferno insieme. Tutti quanti. Rimane solo Alia Cha e siamo tutti rovinati. Perfetto. Arrivederci, Alia Cha. Sì. Grazie. Ciao. Un abbraccio, Ali. Ma un cazzo. Ciao. Che carica che vi dà il signor Agcià, che grande carica che vi dà. Ragazzi, qui abbiamo avuto nell'ordine oggi, diciamo la verità. Allora, una transessuale meravigliosa dalla provincia di Varese ha chiamato e ti voleva attaccare perché tu tratti male transessuali, cosa falsa, e però ci ha spiegato come vive, eccetera eccetera. Un signore che si crede il signor Hendrix, Jimi Hendrix, è un musicista romano che se la prende con me perché dice che ho insultato i musicisti. non paghi di questo. Credo che ci sia stata un'ultima telefonata, se non sbaglio, no? Luisa dalla provincia di Lucca, sì, se non sbaglio, la signora Luisa dalla provincia di Lucca, la quale ha non solo un paio di corna, credo un cesto di corna, come sì, si diceva un tempo. Adesso, ho capito, lei l'ha detto. Ha voluto condividere questa cosa. Scusa, cara Luisa, ti abbiamo lasciato, ti abbiamo un po' trascurato. Nel frattempo, tuo marito ha chiamato? Ma io il marito non lo voglio neanche vedere sul tornato. Poi ma dove abita questo marito adesso, questo signore? Dove abita qui a pochi chilometri da dove abito ma io. Ma tu non ti sei rifatta una vita, non ti sei fatto un amante? Nulla, qualcuno? Nulla, sono come le suore di clausura, io vado dentro e faccio come mi pare, mi diverto, ho amiche, mi sono fatta che dicevo. Amanti, ho la vita, amanti, ho l'hai la fatto? Vita diversa confronto a prima, ecco. Ma qualche amante prima... te lo sei fatto pure tu mentre tuo marito no, si faceva mezzo mondo? Per no, carità, per carità, no, per carità. Per ora... Per ora, guarda, sono, come si dice, non, cioè, non ho voglia. Non ho voglia. Non ma ho voglia è anni che tuo marito deve mettere corna, ma un corno ma lascialo fare, ma tanto rischierà anche la condanna, perché tanto prima o poi rischia anche una condanna. Ma per dai. Che cosa? Che ha fatto? Il recitivo. Ma di che cosa? C'ha la manina un po' lunghina, c'ha la manina un po' lunghina. Ma ci stai dicendo che è pedofilo? No, no, no. È manina lunghina, è ladro. Ha voglia di spendere soldi in gratta e vinci, ha sopra voglia di andare in Calabria con l'amico. Ma che fa, il ladro? Ladro? È un ladro? Diciamo in un certo senso sì. Ma non manca niente. Ma qual è la cosa? Scusa. Come si è avvicinata lei a questa trasmissione? Però, perché anche questo a questo punto diventa come curioso. Come Valenzo, chiedilo bene. No, però. Come si è avvicinata, signora, a questa trasmissione? Visto che dalle 18, diciamo, dalle 17 alle 18:30 va in onda ma un'altra cosa. Ma girando canale, perché avendo, diciamo, la TV sì. In casa. E diciamo, ma alle 17 va in onda una trasmissione che si chiama Focus. Vabbè, Economia, ma chi se ne frega signor Barisoni. Ma non lo sa la signora com'è Luisa? Com'è che lei è arrivata a noi? Questo è molto interessante. Come cambiando canale. Perché siccome sì. Dici te, Pisa arrivi a sentire questo programma che tempo sì. Indietro volevo chiamare le Iene per sì, parlare sì. Magari e invece ha chiamato noi così Iene. Cioè si è trovata nel clima giusto, cioè, volevi parlare volevi parlare di tuo marito alle Iene? Cioè volevo parlare con qualcuno delle Iene visto che Andrea come si chiama quel ragazzo che è successo anche lui voleva andare a parlare con lui, capito? Ma perché cosa, scusami Luisa, perché non volevo denunciare questo signore, perché non può, si può abbandonare una famiglia, una moglie così non si può registrare una, non si certo. Può sì è vero cioè io lavoravo alle scuole sì, questo invece sì. Se ne va a guardi che io guardi che io ho contatti con le Iene cara signora. Ma ora siccome fra un mesetto, quando sarà che ci chiama il giudice, da qui a settembre, insomma, diciamo che sì. Mi chiama il giudice, io sto signore lo sì. Voglio mettere sotto i piedi, cioè nel senso di dire lo voglio mettere sotto i piedi, perché non si può tenere una donna in casa da sola sì. Senza l'uso dell'acqua, senza l'uso della luce, del gas. Ma perché, scusa, perché? Ma è proprio un criminale questo qui. Ma perché, scusa, non hai, tu non puoi usare l'acqua, il gas, non ho capito. No, devo andare alla fontana perché questo clima mi ha dato anche l'acqua. Perché dice io sono a casa mia e faccio che cacchi mi pare. Ma scusa, come ha fatto se non abita a casa a toglierti l'acqua? Cioè non paga più è l'acqua. È andata all'acquedotto e ha fatto chiudere l'acqua a me. Ma è un criminale. È una storia incredibile, ecco, però, questa qua, scusa. Però mantiene una donna egiziana nel egiziana. Condominio insieme ai tre figli. E si fa, ma i figli chi sono? I figli ho messo al mondo io, perché uno ha 41, uno 38 e uno ha 22 anni. Ma scusa un attimo, continua a trombare anche con altri tuo marito? Che so, io mi ha detto che lui va con tutte. C'è un'egiziana pure le mignotte, pure le mignotte. Sì, c'è una scorpana in casa, è brutta quel fastidio. E chi è sta scorpana? Vabbè, signora, scorpana. Mia, però è l'egiziana. Ah, l'egiziana è una scorpana brutta. Dunque lui va anche con le mignotte, perché quella là è scorpana, diciamo, quella con cui sta sì, a casa. Ma lui c'ha un giro mio tanto dolce, dai. Ma di che? Che fa? Il ladro, il criminale, che fa? Sì, un po' di tutto e di più. Un po' di tutto. Mi hanno raccontato certe persone che entrano nei supermercati e ha portato via tazzine, bicchieri, carta igienica. E i figli che fanno? Sanno tutto i figli? I figli, penso che se non glielo dico io, se glielo dice passa allora qualcuno, penso che qualcosa non sanno, ecco. Ma tu vivi senza acqua e senza? E senza il gas. Senza acqua e senza gas, ma qui Parenzo, ma una persona dire, che ha tutto in regola qui chiama secondo te? No, ecco, questo è l'altro. Però Luisa, adesso non ti è colpa sua. Stimolare. Però io dico una cosa, cara Luisa, io ti sono vicino in questa battaglia contro questo criminale. Ma io mi sto battagliando per riavere tutto ciò, quello che mi occorre, perché un deficiente mantiene altre donne, non capisce. Quante donne mantiene? Quante donne ma che mantiene? Ne vuoi? Ma che ti frega? Ma non è che non ti frega, è bene che la gente sappia. È giusto che la gente sappia. Mia, ma che gli frega le persone che ascoltano a quest'ora, presidente Boccia, il dottor Squì, che gliene frega del fatto di una signora che c'ha uno che gli ha messo le corna e che sta con l'egiziana? Ma ragioni bene te, ragazzo, te ragioni bene, ma con che c'è cioè, bello quei piedi, non brava, mi brava, brava Luisa, attaccalo, digli che è un cretino. Certo che interessa la gente come Luisa è stata trattata da questo criminale ecco. Diciamo quello come lo dipinge lei, da questo signore qua che va a mignotte, sta con l'egiziana scorfana e cazzo giusto, e poi non gli dai i soldi per mantenersi, gli stacca la luce, gli stacca il gas, che cazzo, eppure è un mezzo criminale, ma scusa, hai chiesto aiuto ai servizi sociali come dice Parenzo o qualcuno, oppure no? Io ai servizi sociali ho detto solo che se sta avvicinando davanti alla porta li piglia a calcio nel culo, perché non è possibile. Ho capito, amica mia, però esigo, cioè una donna che è ancora moglie, va in queste condizioni e lui se ne sbatte le palle, dei tame, perché bisogna dire chiaro e tondo. Diciamole chiare e tonde. Allora, sì, io mi sono andata a fare un bel giretto dentro al tribunale, ho piantato la mia bella denuncia e ho detto ragazzi, o lo mettete a posto o mi incazzo davvero, perché io sono 3 anni che vivo a Bestia e lui è 3 anni, 10 anni, 20 anni. Ma scusami, Luisa, ma i figli non ti aiutano? I figli non mi aiutano perché non lavorano e abitano in casa con lui. Pure non lavorano, amica. Ma c'è una persona? C'è una persona, dico una in questo gruppo familiare che lavora. Una, manco bu. Nessuno. E tu non lavori nemmeno tu? Che hai fatto? No, non lavoro più perché ero impiegata a scuola. Ma perché non ti sei fatta un uomo? Perché non ti sei fatta un uomo? Un'alternativa? Perché non è da me. Ma una trombatina ogni tanto? Ma manco per sogno. Ma perché? Perché non sono il tipo. No, non sei il tipo. Vabbè, Luisa, io che ti posso dire? Ti aiuterò il più possibile. Dacci il numero di telefono di questo signore. Ce l'hai un numero di telefono? No, lascialo stare perché guarda. Ma no, lo voglio rincorrere a questo punto. A questo punto lo voglio rincorrere, questo qua, che lascia questa signora in questa condizione. Scusami, Luisa, si è preso. Chiamano migranti, gente che attraversa il mare, eccetera. Niente. La signora che ha più corna lei di un cesto di lumache che va come quella, adesso è diventato il caso. Guarda che sei strano, che tu forte. Scusami, Luisa, che ha detto che ascolta? Ascolta, non dici. Non ho capito. Scusami. Ascolta, dici? Quello che dice Puri. No, ma sta ascoltando. Il Parenzo lì? Me ne frega un Cristo quello che dice lui. Io parlo con te e non con lui. Pure. Ciao Luisa, ciao. Solidarietà. Italia morale. La Zanzara. Parenzo, ce l'avrai anche piccolo, ma mi fai arrapare. Questa è una diffamazione pura, ma cioè, aggravata. Come aggravata, si diffamazione come si aggravata questa, di questa signora. Demente. E anche criminali, quelli che lo mandano in onda, cioè quegli assassini, quegli assassini criminali in cabina di regia. il signor Buccero, il signor Pori, criminali, gente miserabile, professionisti. No, guarda, un momento. Negli anni 60, Poli e Buccero li avremmo cacciati a pedate nel culo, sono capito? Proletari, assassate. Gente del popolo. Proletario, no? Un corno, gente che lavora al servizio della Confindustria. Sono c'entra? Peggio dei padroni quella gente lì. Vabbè, ma anch'io allora, anche Cruciani allora. Tu sei il demonio assoluto, ma questo abbiamo già detto tante volte. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Questi sono sempre loro, cioè sono sempre questa cricca di criminali che siede dietro il vetro di Milano e ti che insulta così, a scelta loro selezionano che cosa mandare. Impunemente ti insulta. Esatto. E così funziona, la gente deve sapere. Criminali, Poli e Buccero, faremo proprio i nomi con le foto, le liste, faremo tutto. Faremo chi? Noi del gruppo, noi Android, Mercù. Questo non credo. Valeria, Leo, gente miserabile che lì con un bottone, come la rete. Valeria, che è la regista, con un bottone può fare il disastro. Cioè questa gente qui, queste canaglie, Valeria è una canaglia che dietro si nasconde dietro un vetro, coniglio, dietro un vetro con questa tastiera. Adesso può perché ti hanno mandato un se file far che non morire ti piace. O vivere una persona, è una canaglia, Valeria, canaglia. Ma perché ti hanno mandato? Te ne dico, togli Parenzo, chiama me, vedrai ecco, che faremo. Vedi? Più audience. Scelgono rispetto a Parenzo, io sono uno scienziato. Vedi? Lui un microbo. Ma discrezionalmente scelgono gli audio da mandare, tutto artefatto, tutto costruito. Vergogna. È sceso in campo il professore avvocato Carlo Taormina per difendere, sì, naturalmente, chi? Quello considerato il peggio del peggio, il mostro Antinori. Dico soltanto questo, che noi disponiamo di un documento che la stessa ragazza ha dichiarato di avere firmato, sì? Con il quale ha approvato il programma, esatto, il programma diretto all'autodonazione. Abbiamo un documento firmato, ecco, abbiamo un documento firmato. Noi abbiamo di fronte un personaggio come Severino Antinori, sì? La cui competenza a livello mondiale è assicurata. Ma questo lo sappiamo, ma questo lo sappiamo, capito, lo sappiamo. Però, insomma, senti avvocato, ascoltami. Che c'entra? Cioè, non, non è che se uno è la D'Urso, sì. Non è che se uno ha competenza a livello mondiale è immune dalla. È successo incredibile, guarda, siamo magistrati solo la cosa farà brutti. Ah, voglio ricordare che chiunque in Italia voglia protestare contro gli autovelox, considerati una specie di truffa, di mannaia, di bancomat ai danni del cittadino, da oggi, in realtà non da oggi, da tempo, però ieri abbiamo capito qualcosa in più, ha un nuovo paladino, si chiama Matteo Salvini, al quale sono state fatte una multa, due, insomma recentemente una multa in realtà, andava a 87, si poteva andare al massimo a 70 in un cavalcavia molto conosciuto di Milano, se l'è presa con il cavalcavia, non in quanto tale naturalmente, ma con chi ha messo l'autovelox, che in realtà è il comune, i servizi tecnici del comune che hanno messo l'autovelox, dicendo che è una truffa, non vuole pagare. In realtà, facendo ricorso, Salvini non dice semplicemente che è una truffa ai danni dei cittadini, che è una vergogna, uno scandalo, dice che andava veloce per motivi di sicurezza, per motivi istituzionali, il che è un po' un controsenso, cioè o fai ricorso perché consideri, sì, questa cosa una truffa colossale e allora ti batti, no, fai disobbedienza, non puoi fare ricorso dicendo che andavi forte per motivi istituzionali, perché lì c'è l'impunità della casta, eh. Allora 87 cioè 87 allora 165 euro. Perché non paghi queste multe? Non capisco perché non la paghi. Quell'autovelox è una truffa. Ma non lo vuoi pagare dunque? Quell'autovelox è una truffa. No, ho fatto ricorso a quello come l'ho fatto in passato su altre truffe. Ma ricorso, scusa, qua leggo che tu fai ricorso per motivi istituzionali, rischio sicurezza, ruolo istituzionale, no, che è sta? Come no? Allora, c'è scritto nel ricorso? L'ho fatto io il ricorso, lo fa chi guida il ricorso. Detto questo, quell'autovelox è palesemente una truffa e ci sono migliaia di milanesi, associazioni di consumatori. Vabbè, ma da quello, che per fortuna, toglietelo quando avrete l'avevo in mano, pure impacchettato una volta, non so se mi hanno denunciato o meno. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Ieri mi stavo trombando una, a un certo punto mi ricordo del consiglio del vostro sessuologo e provo minima penetrazione, massima estrazione, minima penetrazione, massima estrazione. A un certo punto lei mi guarda negli occhi e mi dice: ma ascolti la Zanzara? Siamo al top, siamo proprio al top. Cioè, devi capire, Parenzo, che non moltissimi ascoltatori i consigli del professor Bossi. Anzi, dobbiamo richiamare più spesso il professor Bossi, forse anche una volta a settimana, perché urgono altre spiegazioni su altri temi. Urgono. Come sapete, qualche settimana fa, no, in realtà qualche giorno fa, qui alla Zanzara abbiamo ospitato telefonicamente Cristiano De André con questi risultati. Sì, sì, no, ma io ti stavo parlando del tuo rapporto, cioè, tra droga e sesso, cioè le droghe, che rapporto hanno con il sesso, che cosa provocano nel sesso? Questo non lo so, prova a chiederlo a qualche altro, per me non parlo di questo. Non parli di questo. Non parli di questo. D'accordo. Vuoi parlare di tua figlia? Vuoi parlare su mia figlia? No, posso farti una domanda, no, su tua figlia? Nel libro. Se vuoi leggere, lo scritto nel libro. No, senti, no. Sai cosa ti dico? Sì. Perché non te ne vai a cagare? Te la cazzo di domani. E perché mi mandi perché a cagare? Perché sei uno stronzo. Perché sono uno stronzo? Perché sei uno stronzo. Fai un libro sull'autobiografia. Gossiparo del cazzo. Gossiparo, no? io sono lontano dal gossip. Io sono lontano. Sono lontano dal gossip. Sono lontano dal gossip. Leggiti il libro. Sì, lo sto leggendo. Lo sto leggendo. Allora, io interrompo questa. Ma perché? Perché? Parliamo di tuo padre. Parliamo di tuo padre. Stupida. Stupido lo dici. Lo stupido lo dici a qualcun altro. Stupido. La mia autobiografia, leggila e poi. Sì, io la sto leggendo. È un ignorante. Sì, io ignorante. Ignorante, tu sei un cafone. Garbi direbbe che sei una capra, un gossiparo da due soldi. Sì, un chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Allora, Francesca De André con noi, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera. Come stai? Come salve, stai? Bene, cara, buonasera. Bene, dai, è un periodino delicato, come puoi aver capito. Beh, sì, un po' delicato, ma in realtà non è solo un periodino delicato, è un po' di tempo. Tutta la tua vita, forse, no? Sono nata, è abbastanza delicato. Ecco, ho sentito quello che hai detto da Barbara D'Urso l'altro giorno, su questa, dopo aver ascoltato la reazione. Che ha avuto tuo padre. Quanti anni ha Francesca De André? 26 anni. Ah, ottimo. Perché Parenzo non lo sapevi? Non lo sapevo. 26 anni, non lo sapevo. Sapevo che era molto giovane, ma non sapevo. Non sai tanto, è anche molto bella, almeno grazie, così, grazie. Così nel visage. Non ho dubbio, somiglierà al nonno, al papà, insomma, quindi sì, bei tratti. Anche alla mamma. Anche alla mamma, sicuramente. Ho messo la mamma come terza, perché no, messo la mamma come terza. Ho detto che se ho visto, guarda, cioè dai tratti sembra comunque. Ma comunque non lo sai, mai visto. Di mio padre è più conosciuto, quindi giustifico. Assolutamente. Certo, ecco, mi scusi, non volevo offendere nessuno, ma anzi, signora Francesca, mette sempre Zizzani e signor Cruciani. Io non avevo a mio padre, sicuramente quando era giovane, la bellezza. Sì, effettivamente, beh, molto bello. Sì, effettivamente così. Molto. Allora, però, voglio dire una cosa. L'altro giorno, cosa hai provato sentendo questa intervista? Ovviamente, io ho un modo mio di fare le interviste, no? Vabbè, che è abbastanza conosciuto. No, ma ti conosco. Chiamo delle. Faccio delle domande anche abbastanza crude, però non mi sembra di essere stato, come dire, particolarmente feroce. E che lui a un certo punto non voleva più parlare forse della droga, ma soprattutto quando ho detto, parliamo allora di tua figlia. Ma caro Giuseppe, è stato toccato nei punti vivi, che sono quelli gli argomenti principali in teoria di un'autobiografia scritta da lui, ma che diciamo a voce probabilmente gli creano qualche blocco e gli smuovono un po' E perché l'ha scritta, ma secondo io spero te? Anche di sensi di colpa, perché visto la reazione, sai, se uno ti fa una domanda sulla figlia, a parte la droga iniziale che comunque ha fatto parte della tua vita, quindi non vedo per quale motivo non riuscire a parlarne. Sì, sì. E poi se uno ti fa una domanda sulla figlia, rispondere se è un gossiparo di merda lo trova cioè e si commenta da sola la risposta, no? Sì, perché tu dici i figli non sono gossip, diciamo, no? Non sono oggetto di gossip. Ma poi voglio dire, hai appena pubblicato un'autobiografia. Ecco, ma perché l'ha scritta? Nell'autobiografia dovrebbe essere la parte principale. Ecco, ma perché ha scritto questo libro secondo te? Ma sai, è arrivato ad un punto dove comunque sta cercando di andare avanti in quello che è la sua carriera, vede che comunque hanno successo di andare a cantare comunque dove cantare canzoni di suo padre, avrà fatto i suoi CD, non so come siano andati o meno, perché non ti interessa la cosa? Non ho idea, no, non è che non mi interessa, è che visti i rapporti che ho con lui non sto neanche a seguire più di tanto il lato artistico. Cioè tu non lo senti mai, no? Praticamente? Ma non lo sento, perché comunque non mi crea uno stato d'animo meraviglioso, ecco, diciamo. L'ultima che volta che l'hai sentito inevitabilmente mi... Nella tua trasmissione, quando avete messo Merletti barcollando. Ah, che canzone meravigliosa. Merletti barcollando. No, e non ho capito, l'ultima volta che l'hai sentita era là, ma di persona, cioè l'ultima volta che l'hai visto. Visto di persona, guarda, non me lo ricordo neanche. Non te lo ricordi? Quindi, cioè, anni fa. Sì, si parla di anni. Ma perché dici che vuoi andare addirittura, vuoi querelare tuo padre per il libro che ha scritto? Cosa c'è di sbagliato? No, io non lo voglio querelare, io ho fatto un esposto querela con... Appunto. la mia famiglia, l'ho proprio già fatto, quindi non è che ho l'intenzione, sono già avviata, perché purtroppo il contenuto del libro è diffamante in modo esponenziale nei confronti dei cioè madre, ti diffama, diffama, diffama te e tua madre. È tutto distorto il racconto del libro, cioè i contenuti. Io fammi un esempio, dai, fammi un esempio così. Mia madre è una pazza isterica con un postpartum irreparabile che ha, diciamo, agito in modo irreparabile sul suo sistema nervoso, che ha cresciuto i figli come dei soldatini, al quale ha voluto inculcare l'immagine del padre come una persona malvagia dal quale stare lontani, invece lui poverino, padre amorevole che in realtà voleva avere questo rapporto coi figli, e soffriva perché veniva allontanato da parte della madre. Questa è una follia, perché la mia memoria non la cancella nessuno, e io in pomeriggio che ho passato insieme ai miei fratelli ad aspettare un padre che non arrivava mai perché non si svegliava la mattina, me lo ricordo bene. Partendo cioè, da per cui secondo te esempio cose anche ben più tragiche, tipo cioè, per esempio nel libro non chissà come mai non ha parlato di quello che sono stati, di quello che è stata la nostra convivenza. E nella nostra convivenza sono successe un sacco di la più tremenda che non riesce a cancellare, la più tremenda. No, purtroppo sono in una situazione delicata, devo stare anche molto attenta a quello che dico, non dico, perché se per gli avvocati sì, esatto, non mi creerai problemi. No, ma un episodio di questo qua che non puoi fare a me. Traumatico. Diciamo che non era una presenza desiderata in casa, e che diciamo che la mia presenza era tutto tranne che quella di una figlia, probabilmente, cioè, quindi faceva io, esattamente come se non ci fosse nessuno, e anzi mi diceva che dovevo essere io ad abituarmi. Ma l'hai visto fare delle cose terribili in casa? Che cose purtroppo, che diciamo che una bambina, che una ragazza non dovrebbe vedere? Sì, assolutamente. Proprio ti parlo da ho visto sicuramente cose che né una ragazza né una figlia né nessuno dovrebbe mai vedere. Tipo, fammi un esempio, dai, anche qua. Le argomentazioni generali puoi averle già tirate fuori tu. Cioè la droga, il sesso con altre persone, queste robe qua. Cioè l'hai visto drogarsi davanti a te? Non lo so, una domanda, lo so che capito, purtroppo sì, non puoi rispondere esplicitamente. Capito, però sicuramente le argomentazioni sono queste. Sono queste qua. Senti, ma terribile, dai, no, ma certo, racconto terribile. Assolutamente, però la lucidità con cui l'ho vista anche da Barbara diverse volte, racconta le cose, Francesca, è anche segno di una certa, forse è terapeutica, forse, no? Anche raccontare certe cose, o no, Francesca? Cioè raccontarle e dirle, no? E dirle pubblicamente. Raccontarle e dirle pubblicamente. Che cazzo accendi, David? Non ti faccio sentire la canzone. Ma non lasciano a partire, non fare sentire questa canzone. Non gli va di sentire la canzone del padre, gli fa sentire la canzone del padre. Solo l'inizio. Ma le perché piace, gli vuole fare senti. Un momento. Ma roba è incredibile. Vuole fare sentire la canzone del padre, non gli va per niente di sentire la canzone del padre. Sei un criminale peggio di me. No, ma figurati, ma guarda, dal punto di vista artistico, diciamo che è uno degli unici lati per il quale non ho nulla da dire. No, certo. Figurati, senti, ma vorresti avere avuto un altro soggettivamente. Comunque ti rispondo alla domanda, parlarne purtroppo sono situazioni che vivo da quando sono piccola, e quindi per non farmi trascinare troppo dalle emozioni cerco di parlarne diplomaticamente, non sono neanche una persona che vuole parlare. Ecco, ma la definizione anche perché se c'è una cosa che ci tengo a dire è che io non vado, perché tutti sai i fan, quelli da coro da stadio, li definisco io, che sono i classici che difendono a priori senza alcun tipo di logica, di morale, io non sfrutto il mio cognome per andare a sputtanare mio padre, come dicono, scusa il termine, passamelo. E io purtroppo mi trovo costretta a difendermi da accuse e diffamazioni fatte da lui pubblicamente. Però dalla Barbara non è che vai gratis, diciamo. Cioè, ma in generale sì, ma nei programmi televisivi che tu venga, io ho una collaborazione con loro anche al di fuori di quello che faccio la mia intervista privata. Io faccio l'inviata per loro, faccio l'opinionista. Ah, un programma d'accordo. Con cui io collaboro. Comunque, così prendi dei soldi, dal programma. Sì, ci lavoro nel programma. Ma il nonno lo hai conosciuto, il nonno? Però quando vado a parlare, io invece di quello che è il mio, di privato, non ci vado tanto per fare, perché non ho niente da fare la domenica pomeriggio. Ma per reagire. È che mi ritrovo diffamata pubblicamente, me, la mia famiglia, una madre che si è fatta un mazzo così per crescermi. Ho visto, vissuto le sue sofferenze. Ma lui adesso non dà più soldi? Non dà più soldi? Non dà più soldi? No, non li vuole più dare. Non li vuole più dare. Tu ne hai bisogno? Ma non sono io che in realtà... Tua madre ne ha bisogno, hai detto. Sì, sì, tua madre. Diciamo che comunque siamo tre figli e una moglie che ti ha cresciuto i figli che vivono ancora in un affitto, sì. E lui di proprietà non ne ha poche, quindi senti, diciamo ma... che lo trovo di cattivo gusto voler, cioè, lui potrebbe, quello che è l'affitto potrebbe, della madre che ti ha cresciuto i figli. Però... Potrebbe tranquillamente farlo, potrebbe tranquillamente dare. Ma il nonno, lei l'ha conosciuto, Fabrizio? Vedrà, no? Guarda, sì, certo che l'ho conosciuto, è venuto a mancare che io avevo 9-10 anni. Lui dice che ha subito... E io ti dico anche una cosa, dimmi. Se ci fosse lui ancora presente, tutto questo non succede, non sarebbe mai successo. Perché? Perché sicuramente ci sarebbe stato molto più ordine in famiglia e tante cose non sarebbero successe. Cioè lui non avrebbe fatto certe cose con suo padre vivo, secondo te? Secondo me sì. E Dori? Cioè, Dori? Non lo avrebbe fatto, non lo avrebbe fatto. E Dori secondo invece? Me no. Ma però nella cosa, aspetta un attimo, Dori, nel suo libro, nel suo libro ha scritto che ha dato anche qualche responsabilità al padre perché diceva che era, no, che era... Sì, beh, nel senso, lo trovo anche poco carino raccontarlo nel momento in cui non che era un alcolista, eccetera. Sì, ne parla così quando non può replicare, insomma, vabbè. Non è molto, non personalità è molto bello. Complessa avere un padre come di Fabrizio, cattivo gusto, dici, lo di cattivo gusto. Ma non lo, sì, nel senso, ma tu come padre, vorresti averne, il padre è sempre padre, ma vorresti averne avuto un altro, adesso sinceramente? Sì, assolutamente sì. Sì. Adesso magari perché cioè c'è non la rabbia, c'è possibilità. Però... No, cioè... ragazzi, non è rabbia, è obiettività. Cioè, io nel senso sono cresciuta e mi porto dietro dei traumi e vado avanti sempre a cercare di difendermi anche da diffamazioni. Cioè, nel senso, come si suol dire, cornuta e mazziata. Cioè, non solo ho dovuto, capito, passare un'infanzia di un certo tipo. D'inferno, perché, diciamo. Sì. Sei... sì, esatto. Ma ci avrà un ricordo non bello solo, col papà? Ce l'avrà anche... un ricordo? Ad oggi mi... Ma guarda, non è che io lo odio, ragazzi. Cioè, io non ho odio, capisci? Io semplicemente mi difendo da accuse, però vivere una situazione dove sei stata zitta per anni nonostante l'infanzia che ti ha fatto vivere e ti ritrovi ad oggi pure, capito, mazziata da quello che sono le dichiarazioni invece da vittima che vuole rilasciare. Che persona, cioè, che persona è secondo te? Che definizione dai di tuo padre? Cioè, una definizione che ti viene proprio da dentro, come lo consideri? Falso. Falso, uno falso. Ma una persona... Io lo definirei falso, visto quello che riporta... Quello che mi viene da dire è che... E come personalità? Fatto. Come personalità? Una personalità? Cioè, non puoi credere una parola di quello che dice? Non riuscirei a definirla quella sua personalità, effettivamente. Cioè, riuscirei a definirla. Cioè, perché non so che neanche che personalità reale abbia. Non credo neanche di conoscerlo. Non c'è nulla che può fare dal tuo punto di vista per farsi perdonare? Nulla? Guarda, se ritirasse quello che si è inventato nel libro sarebbe un buon passo. Dovrebbe ritirare tutto quello che si è inventato nel libro. Nel senso, sì, io non ho querelato tanto per fare, perché comunque io, mio fratello e mia madre siamo ben convinti di quello che sono le falsità riportate in quel libro. Quindi ne sono ben consapevole, le ricordo bene le cose. Mi dispiace, però la storia familiare. Francesca, ti abbraccio, ciao, presto. Saluti, ciao, saluti. Ciao, ti ringrazio, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Saluti, ciao, grazie, saluti. Ciao. Salvatore Brescia, vai che andiamo verso la conclusione, vai. Ma Salvatore, vai. Sti qua, però, Vabbè, adesso non fare il buon padre di famiglia, ti dispiace, non te ne frega cazzo, molto. Ti dispiace, no, non la conosci. No, io sto attento, ascolto, mi dispiace, cioè, Salvatore, mi dispiace, c'è non la c'è. Storia così. Salvatore, dai. Chiudi tutto, dai, chiudi la baracca, Salvatore. Adesso stiamo chiudendo, ma vada a quel paese, ma Salvatore. Ma perché vada a quel paese, Matteo, Salvatore? Da Catania, Giovanni da Biella, Marzia Salvatore, da Roma, dimmi. Salvatore da Brescia, vadano tutti a fare in culo serenamente. No, dai, Salvatore. Te lo dico io, serenamente. Fallo parlare, Salvatore. Senza odio, senza odio. C'è o non c'è? Non c'è. Marzia Roma, dai, Marzia. Ma chi se la frega? Grazie per avermi mandato a fanculo. Comunque, poi Parenzo, capito? Vai. Ma chi se ne frega? Visto Jimi Hendrix di Roma, quello che ha chiamato prima. Dov'è Jimi Hendrix di Roma? Non lo so, poverino, quello di prima che ha chiamato. Insomma, ragazzi, la professione del musicista è una professione molto seria. Io ci vivo con un da 25 allora? Anni con uno e volevo dire che uno, se non è un valente musicista con le palle, non si guadagna da vivere. Brava. Lui probabilmente sarà molto ispirato, sarà un missionario, però non è un vero musicista. Vive musicisti veri e si fanno veramente un gran mazzo. Abbraccio a tutti, ciao ciao. Ciao Marzia, allora i musicisti ce l'hanno con me, non si capisce perché, ho detto semplicemente che non è dignitoso se fai il musicista, il giornalista, il conduttore radiofonico, eccetera, farsi mantenere da un padre a 47 anni, poi se uno lo vuole fare, sti cazzi, a domani. La volete sapere una cosa? Andate a quel paese. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh.